però faccia piano però. È curiosa la patologia che ha. Guardi allo specchio, agli occhi stanchi però. Sia tranquillo, è solo la realtà. Sembra quasi che voglia arrendersi e portare giù anche tutta la città. Sembra quasi che voglia credere e pensare che un futuro lei non ha. Poca storia, fratello mio, non essere troppo serio che rovina la pelle che bella e ti fa giovane. Poca storia, fratello mio, non essere troppo serio che vada, prescrivo solo gocce per lei. Il placebo è un rimedio giovera. Stia più lontano dalle tragicomiche. La televisione non è la verità. Sembra quasi che voglia credere a una vita che tra l'altro non avrà. Problemi che non ha.